questa carta nasce da un cammino abbastanza lungo, perché nell'ambito dell'assessorato alle politiche delle periferie del lavoro da diversi anni si sta percorrendo una strada che è quella di mettere insieme tutta una serie di associazioni che hanno partecipato alle varie feste dell'altra economia che di solito si tengono nel weekend a metà dicembre circa. E queste in realtà sono varie botteghe del commercio equo, gruppi di finanza etica, gruppi di acquisto solidale, associazioni sul territorio di vario genere per la cooperazione, tutta una serie di appunto di entità del genere. E siccome è in atto si è avviato il progetto sempre da parte del Comune di Roma per la costruzione della città dell'altra economia al mattatoio, all'ex mattatoio, questa realtà che erano riunite in questo che si chiama appunto il tavolo dell'altra economia, che è un gruppo completamente aperto a cui aderiscono diverse associazioni appunto nel tempo, si è cominciata a sentire l'esigenza di provare a cominciare a definire che cos'è quest'altra economia. E quindi allora ci siamo interrogati e abbiamo cominciato un percorso che è sfociato come primo passo in questa carta, ma che rappresenta comunque una sorta di lavoro in corso, perché nessuno ha delle definizioni precise. Ci si rifà a tutta una serie di esperienze, non solo quelle delle associazioni, ma anche esperienze più vaste, e quindi si è tentato di codificare in qualche modo quello che c'era fino a questo momento, e per cominciare a confrontarsi su un qualcosa di scritto, di condiviso, e cominciare appunto questo percorso. Forse la definizione, cioè capire che cos'è questa carta, si può fare leggendo proprio il primo punto, che è un pochino quello che la caratterizza. E il primo punto recita proprio così: sono comprese nella definizione di altra economia, intesa come diversa e alternativa a quella oggi dominante, tutte le attività economiche che non perseguono le finalità del sistema economico di natura capitalistica e di ispirazione liberista o neoliberista. In particolare sono da essa rifiutati gli obiettivi di crescita, sviluppo e espansione illimitati, il perseguimento del profitto ad ogni costo, l'utilizzazione delle persone da parte dei meccanismi economici e nel solo interesse di altre persone, il mancato rispetto dei diritti umani, della natura e delle sue esigenze di riproduzione delle risorse. Ecco, questo penso che riassuma lo spirito della carta.